Casa, fuori dalla tua città, non c'è il sentiero, c'è una luce che di notte da laggiù ci dà un avviso. Non ci sono muri intorno a lei per respingere le speranze, non ci sono muri intorno a lei a difendere le certezze. Ci han provato con dei secoli di scienza, ci son vicini ma divisi come sta diviso un uomo dalla sua ombra, come zero e uno irrazionali. Hanno in mezzo infiniti punti, come tutti i punti su questa linea, ne hanno in mezzo infiniti altri, come il sole gira alla rovescia, senza una meta concreta, su una tela traccio punti lontani e orizzonti da definire. Quanto arriva in alto un uomo con le sue idee, legato dal suo corpo nella realtà, mosso e spento dalla stessa libertà. Senza una meta concreta, come tutti i punti su questa linea, ne hanno in mezzo infiniti altri, su una tela traccio punti lontani e orizzonti da definire. E fuori dalla mia città non c'è sentiero.